da molto tempo questa stanza ha le persiane chiuse. Non entra più luce qui dentro, il sole è uno straniero. È lei che mi manca, è lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni. Lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Della vita è grande come il mare. Da quando se n'è andata, io non l'ho vista più. È lei che mi manca, è lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha perso la speranza. Io no, che non l'ho persa, io aspetto che ritorni. Ti sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Io no, che non l'ho persa, io aspetto che ritorni. Ti sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Dell'amore è l'ora.